Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Salve a tutti e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E siamo in un febbraio che è veramente molto denso dal punto di vista dell'editoria. O meglio, diciamo che vi abbiamo parlato molto di libri e continueremo a farlo anche nel mese di marzo, però intanto ci siamo molto concentrati su quelle che sono state le uscite editoriali del 2018 e della coda del 2017 soprattutto. Anche questa settimana quindi ci concentreremo su questi aspetti, proponendovi un paio di segnalazioni con cui, come amiamo dire, approfondire, discutere e parlare di storia, anche fuori dalla nostra mezz'ora di storia del sabato. E in questo caso vi facciamo una doppia proposta. Vi presentiamo prima una rivista che ci è piaciuto molto e poi un podcast. Due prodotti che sono molto diversi fra di loro, ma che hanno in comune il fatto di assegnare un valore alla storia in diverse forme e alla scelta di contribuire alla diffusione della storia con dei linguaggi e degli strumenti differenti. Eccoci qua, siete sempre sintonizzati sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko e siete in compagnia di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato. La puntata di oggi è dedicata alla presentazione di strumenti per leggere, parlare e discutere di storia e inauguriamo questo percorso presentandovi una bella rivista recentemente uscita. È una delle ultime pubblicazioni del 2017, il primo numero è uscito nel dicembre dello scorso anno e la rivista di cui stiamo parlando è Archivio, curata dallo studio torinese Nationhood, codiretta da Matteo Milaneschi e Achille Filipponi, che avevano alle spalle l'esperienza di Yard Press, ed è edita dalla casa editrice Promemoria, una casa editrice, uno studio che lavora per l'appunto anche sulla tutela e conservazione di archivi. La rivista Archivio è dedicata alla valorizzazione della cultura delle fonti d'archivio e della pratica d'archivio. Scusate la ripetizione, ma è questo il tema della rivista. E nel numero 1, uscito nel dicembre 2017, come dicevamo, intitolato The Challenge Issues, sfide, si presenta come un prodotto editoriale decisamente ghiotto per gli appassionati della carta stampata. Copertina semirigida di un materiale un po' granulare, piacevole al tatto, una bella immagine grande di due punks russi in bianco e nero, in alto della pagina il titolo della rivista che richiama con i suoi caratteri quelli che erano i caratteri a stampa delle riviste degli anni 70. Ha un grande formato e tante foto all'interno che per l'appunto raccontano queste fonti d'archivio molto, molto particolari. All'interno, per l'appunto, archivi e tante riproduzioni di fonti, sia grafiche che iconografiche. Le tematiche trattate nel primo numero, The Challenge Issue, scusate per la maniera con cui l'ho pronunciato, che abbiamo qua fra le mani, spaziano dalle sottoculture in Russia negli anni 80, con delle bellissime immagini, agli archivi d'industria, archivi ad esempio c'è un bel viaggio sulla fondazione della Fiera di Milano, fino all'immagine che io personalmente ho trovato piuttosto gustose della rassegna PT Trend, uno degli eventi più originali e interessanti degli anni 80 italiani e soprattutto degli effervescenti anni 80 fiorentini, che meriterebbero una maggiore attenzione. In particolare poi meriterebbe una grande attenzione in più questo evento di PT Trend, che varrebbe la pena proprio di riscoprire. Unica pecca per noi poco affini alle lingue straniere, il fatto che sia scritta in inglese, ma decisamente non è un problema, perché chi ha curato questa rivista ha avuto un occhio di riguardo anche per un po' gli italioti come il sottoscritto, perché in fondo alla rivista c'è la traduzione degli articoli, quindi è un prodotto che di cui possono fruire veramente tutti e tutte. Per saperne qualcosa di più, innanzitutto vi suggeriamo di andare a visitare il sito di Archivio, che è www.archiviomagazine.com, e poi abbiamo qua ai nostri microfoni Achille Filipponi, condirettore di Archivio, come dicevamo, che ci racconterà della rivista. Ciao Achille, andiamo subito alla presentazione della rivista. Partiamo da una domanda di fondo. È una bella scommessa quella di lanciare una rivista cartacea in questo periodo. Da dove nasce questa volontà di proporre una nuova rivista cartacea e soprattutto con un focus così particolare? Qual è il percorso professionale anche che vi ha portato alla volontà di lanciarvi in questa avventura così particolare? Ma Jacopo, guarda, ti ringrazio intanto di questa domanda, in maniera tale che io riesca un attimo, diciamo, a chiarificare il panorama intorno appunto a questo progetto, che è un progetto rischioso, che però a detta nostra, diciamo, sia nostra, mia e di Matteo Milaneschi, che codirigiamo la rivista insieme alla caporedattrice che è Alba Solaro, ma anche diciamo, nell'opinione dell'editore, ha anche un mercato questo progetto, nel senso che i fattori scatenanti, diciamo, sono due. Uno è intanto sicuramente l'incontro con Pomemoria, che è l'editore, che è un editore, diciamo, che non fa dell'editoria il suo primo progetto, ma si occupa proprio di storage digitali e di digitalizzazione d'archivi, e quindi l'incontro con noi, che ci occupiamo di editoria, io ho cofondato insieme a Gian Domenico Carpentieri Gear Press nel 2011, è stato un incontro abbastanza scatenante sotto questo punto di vista, perché già comunque io con Gear Press mi ero occupato molto di, questo devo dire anche grazie a Gian Domenico, di archivi, anche se noi con Gear Press ci occupiamo di archivi, di subculture, diciamo, di sottoculture, movimenti underground, questioni, diciamo, più politiche, mentre in Archivio, diciamo, il progetto si staglia anzitutto per quanto riguarda la questione che affrontavi tu nella domanda del cartaceo, è una questione dirimente, perché in questo momento l'editoria vive una specie di rivoluzione, di strana rivoluzione, perché i grandi editori sono bene o male, diciamo tra virgolette, in crisi a livello di mercato. Stanno nascendo tantissime case editrici tra virgolette indipendenti, che si occupano di editoria in un altro modo, hanno un altro, diciamo, modus operandi, che non, per esempio per quanto riguarda noi come rivista, siamo una rivista che esce in doppia lingua, verrà commercializzata in Europa, negli Stati Uniti, in Italia, ma si rivolge soprattutto a, per quanto riguarda la sua distribuzione, a librerie molto specifiche, a librerie di musei e cose del genere. Per esempio una rivista che l'edicola se la dimentica, tra virgolette. Per quanto riguarda come ci siamo arrivati appunto per questo incontro, quindi per noi, per me è stato, incontrare Promemoria è stato un, come dire, una questione peculiare, perché noi, per esempio io quando ho cofondato Yerpress l'ho fatta perché pensavo che non esistessero gli editori come Promemoria, che si mettessero in questa condizione di grande libertà operativa, lasciandoti una enorme possibilità di gioco sui contenuti e con i quali tu potessi essere, diciamo, come è il nostro caso, in grande sintonia. Quindi, che poi diciamo la rivista la sentono loro, poi magari ne parleremo più avanti, però alla fine Archivio è una rivista di cultura contemporanea, cioè di ricostruzione della cultura contemporanea, soprattutto visiva tramite la memoria, quindi e parla di sport, di cinema, di moda, di design, di architettura, di fotografia d'arte, quindi alla fine c'è un grande possibile mercato che non risponde a una community specifica. Sì, esatto, anche perché mi viene da pensare, se doveste fare riferimento alla comunità degli archivisti, forse troppi lettori non li avreste, perché sono anche, è anche un mestiere poco bazzicato, purtroppo. Perché... Guarda, in realtà noi, ti interrompo, scusami, siamo stati sorpresi dall'enorme numero quantitativo della community degli archivisti in Italia, perché gli archivi sono tantissimi, sono migliaia, e le persone ci lavorano dentro, quindi sono forse decine di migliaia sotto certi punti di vista. Ah, ecco. Sicuramente più di 10.000, probabilmente, adesso non ricordo i numeri a memoria, però parliamo di migliaia di persone, ma chiaramente poi questa è una rivista che deve assolutamente fuoriuscire da, diciamo, oltrepassare perlomeno come confini questa comunità. Si deve parlare anche a questa comunità, chiaramente. Per esempio noi all'interno della rivista, per quanto riguarda la, ma ne parliamo magari più avanti, adesso non voglio andare subito dentro lo specifico, nello specifico così tanto, ecco. No, ecco, però cioè, diciamo che andiamo subito sulla questione, anche perché mi colpisce quello che tu dici sul fatto di oltrepassare i confini di questa comunità, perché secondo me la struttura editoriale, cioè la struttura grafica che avete dato ad Archivio, ne fa un prodotto molto bello, sostanzialmente, che riesce a colpire anche un pubblico che non sarà il pubblico di massa, naturalmente, come tu dicevi, non è il pubblico dell'edicola, è ovvio, però è un pubblico che può essere colpito dal prodotto in quanto tale. Infatti questo mi veniva da pensarlo anche guardando anche alla vasta quantità di immagini che ci sono, e anche al tipo di archivio che di storie d'archivio che andate a ripescare. Infatti, ecco, entro in questo punto sulla questione. In che maniera voi selezionate gli articoli e i fondi d'archivio su cui i vostri collaboratori e voi andate a lavorare? E in che maniera si costruisce il rapporto fra la pratica d'archivio e il racconto sulla rivista? Allora, guarda Jacopo, il discorso è molto semplice, nel senso che il timone sicuramente è una via empirica di ricerca proprio fisica, in cui noi entriamo direttamente dentro gli archivi a cercare le cose, a cercare i patrimoni documentali. Ora, la cosa interessante è che noi non cerchiamo qualcosa di specifico. Che cos'è che ci guida fondamentalmente? Ci guida, è come se noi ricostruissimo un atlante dagli archivi. Cioè, come se noi tirassimo fuori praticamente dei patrimoni documentali selezionati per ricostruire un atlante che è la rivista intera. E questo può avvenire soltanto in un modo, con il tema. Perché, come ti dicevo prima, Archivio non è una rivista tematica in quanto zona del sapere. Si occupa di tutto, fondamentalmente, Archivio. Quindi quello che guida la costruzione della rivista è un tema. Per esempio nel primo numero, che è The Challenge Issue, è tutto un numero sulle sfide, perché volevamo che il primo numero fosse, diciamo, parallelo alla nostra idea di sfida editoriale, chiaramente. e dentro questa veste grafica che tu hai notato, tutto quanto diventa, come dire, venissero portate a una lettura, a un livello di lettura differente, più primario, mentre invece le cose più, magari di primo acchito, più leggere, vengono approfondite come se fossero, ad esempio, ti faccio un esempio, amiamo molto creare queste scie, magari tra un archivio e un altro, oppure parlare in un dato modo di alcune persone o di alcune storie che troviamo dentro gli archivi. Per esempio, dentro l'archivio del Politecnico di Torino abbiamo trovato queste splendide fotografie di Carlo Mollino, che hanno molto a che fare con la sfida. In questo caso noi tutti quanti conosciamo Carlo Mollino per le Polaroid erotiche o per altri fondi fotografici molto famosi o per le foto che lui stesso, i fotografi che lui, diciamo, chiamava a lavorare, facevano la sua architettura, il suo design. Ma non è questo che ci ha interessato per esempio la questione dello sci, perché Mollino era un fissato di sci, ha fatto un libro che si chiama Introduzione al discesismo, in cui come un nerd si è messo lì a studiare tutta la dinamica dello sci e quindi la sfida sportiva, i movimenti, che poi fra parentesi abbiamo notato anche queste scie che si trovano in queste fotografie splendide. Si ritrovano, c'è un eco di queste scie, di questo studio delle dinamiche anche nei suoi progetti, e quindi per esempio il fatto Mollino non viene trattato in maniera specifica da una persona che scrive necessariamente di architettura o di design, quindi si crea una scia che rispetto alla penna che ci scrive dentro è di tutt'altra questione, cioè va ad approdare su altri lidi. Creano delle scie tra un archivio e un altro e creano delle scie tra argomenti diversi. Ho capito. Senti, volevo chiederti una cosa. Queste, che poi è la nostra ultima domanda perché il tempo ci sta un po' scorrendo via. A proposito di apertura di archivi, cioè questi archivi vi vengono aperti facilmente nel momento in cui state preparando una rivista, oppure avete incontrato un po' di ritrosia da parte di chi questi archivi li cura e li possiede? Sì, allora guarda, diciamo che non c'è una quantità di spirito collaborativo costante, chiaramente, perché tutti i posti lavorativi funzionano ognuno in maniera diversa dall'altro. Devo dirti che noi siamo molto avvantaggiati perché noi, per esempio, interno alla rivista abbiamo 2 o 3 Zoom a numero sul metodo d'archiviazione. Proprio ci occupiamo anche di intervistare gli archivisti sul loro metodo di archiviazione, sull'importanza dei loro patrimoni documentali, su come questi vengono assemblati, su come questi vengono storicizzati, datati, quindi ci occupiamo anche del processo d'archivio e parliamo molto con gli archivisti, quindi siamo tra virgolette avvantaggiati, oltre che dal fatto chiaramente che Promemoria è un'azienda che si occupa anche soprattutto di archivi, quindi conosce gli archivisti, quindi noi, il nostro editore è anche esso stesso un piccolo passepartout per questo mondo, che però è un mondo molto variegato che contiene delle diversità. No, non abbiamo incontrato enormi difficoltà, devo dire, sicuramente questi posti, quando incontrano noi, vanno incontro a dei processi di buttare fuori le cose dal loro archivio che non sono, soliti. Non sono i processi usuali, però allo stesso tempo devo dirti che abbiamo incontrato grande collaborazione, siamo molto felici di come poi alla fine anche gli archivisti stessi rimangano sorpresi di come poi la rivista viene assemblata e di quello che viene fuori. Allora, per la seconda proposta della puntata, dopo il suggerimento che ci ha dato Frey per leggere, andiamo a quello per ascoltare. Andiamo infatti ad analizzare un genere che a noi è abbastanza noto, anche abbastanza affine, ovvero quello del podcast. Quello del podcast è un linguaggio molto simile a quello radiofonico. Il podcasting, infatti, è un filone che è emerso in particolar modo in questi ultimi anni, ma in Italia è ancora poco diffuso. Come nel nostro caso, molto spesso i podcast italiani che sono disponibili online sono, nella maggior parte dei casi, dei podcast appunto di trasmissioni andate in onda prima in FM. La differenza però tra un programma radiofonico e uno che si definisce come programma nativo, tra virgolette, podcast, quindi ideato per un ascolto che diciamo è abbastanza unico, è una differenza sostanziale, perché da un lato abbiamo i programmi che rispettano le regole della messa in onda radiofonica, appunto, cioè con i tempi di ascolto previsti per la radio in onda, per dire una regola, mentre per l'altro invece il podcast è concepito come un ascolto programmato, unico, in cui la lunghezza del programma può variare e può essere anche molto più estesa in molti casi, perché chi ascolta ha selezionato apposta quel programma. Come dicevamo, però, questo è un genere ancora poco battuto in Italia, soprattutto per quanto riguarda la storia. Ma tra poco andremo a chiacchierare con uno storico che si è imbattuto proprio in questo filone, ci si è buttato anzi. Si tratta di Francesco Cisco Pota, versatile storico che abbiamo conosciuto quest'estate in un dibattito sulla storia alla radio, neanche a farlo apposta, nel seminario estivo di Zapruder. Sentiamo dalla sua voce come ci racconta questo lavoro un po' particolare di storico in podcasting. Storia dal Jukebox nasce tra il 2012 e il 2013, il momento in cui ero forzatamente fermo da varie attività lavorative di ricerca e nel quale, durante il quale ho cominciato a interessarmi ad aspetti che mi avevano sempre incuriosito, cioè quello delle fonti, diciamo, alternative o diverse o meno solide della storia. Ho cominciato così a leggere alcuni testi che parlavano della relazione tra musica e storia, mettendo insieme due mie passioni, banalmente, e da lì ho cominciato a affrontare la questione della musica come fonte diretta della storia. Ho immaginato un prodotto audio nel quale raccontare la storia usando la musica come fonte diretta. Ho contattato e l'ho proposto a ilmondocontemporaneo.com, che ha accettato, mi ha dato spazio. Inizialmente erano molto brevi, era una rubrica di un quarto d'ora ogni 15 giorni e poi pian piano invece ho avuto bisogno di aumentare lo spazio, loro me l'hanno concesso, quindi è diventata una rubrica con cadenza meno precisa, ma di 45 minuti. Sono riuscito anche a fare alcune web radio, anche soltanto per la questione dei diritti d'autore, che era una questione per me un po' spinosa, che adesso però non faccio in tempo a toccare, e l'aumento delle tempistiche, del minutaggio, è stato di pari passo con l'approfondimento della ricerca, nel senso che le prime rimanevano molto in superficie, usavano molto la musica, ma rimanevano un po' in superficie sulla storia. E quindi erano delle chicche, se vogliamo, ma che non chicche storiche, ma che non andavano in profondità nel periodo. Invece, successivamente con i podcast a 45 minuti, sono riuscito ad andare un po' più in profondità e a dare appunto un'idea più a 360 gradi del cosa significasse anche quella canzone in quel determinato periodo di tempo. Non soffermandomi solo sui testi, ho fatto anche tutto un lavoro sulla musica, sul perché quel tipo di sonorità venisse scelto in quel momento, e questo chiaramente ha aumentato la necessità di tempistiche che avevo. Un lavoro che mi piace molto perché appunto unisce due mie grandi passioni e che mi permette di arrivare anche a un pubblico vario, perché permette di arrivare a un pubblico magari già più affine, già più vicino alla storia, magari se non proprio ricercatori, comunque persone che non ne sono a digiuno, e a un pubblico invece magari quello dei più giovani, che è meno solito sentire la storia, che magari la percepisce in un'altra maniera e a cui il format podcast più musica riesce a dare quella possibilità di ascolto più facile. Non perché i contenuti siano più leggeri, ma perché appunto lo è il format in sé, più abbordabile per loro. E questo è il motivo per cui secondo me è importante fare storia in podcasting. Il podcasting può diventare potenzialmente mezzo veramente potente, lo è già in altri paesi, penso agli Stati Uniti d'America, dove veramente il podcasting sta vivendo ormai da tanti anni anche momenti di grande energia e produzione, le produzioni continuano a aumentare, dove si fanno degli interessantissimi prodotti di podcasting storico, a tema storico, e credo che anche in Italia vi sia spazio per un podcast fatto bene, che parli di storia e che non sia soltanto la chiacchiera, ma che abbia anche dentro questioni di montaggio, quindi che si interessi anche al punto di vista della fruizione oltre che del contenuto. Secondo me è importante anche perché si può pensare che attraverso un format che sia anche che possa raggiungere un numero ampio di persone, comunque alla fine per ascoltare un podcast basta uno smartphone e mentre si va a scuola e al lavoro lo si può ascoltare. E proprio per questo si può pensare che un podcast a tema storico fatto rigorosamente possa aiutare a difendere la memoria, cosa assolutamente importante, ma anche a combattere una vera e propria lotta, ad esempio contro bufale storiche che purtroppo da sempre, non solo oggi, ma da sempre imperversano anche nei dibattiti politici e pubblici della società. Penso alle pensioni fondate da Mussolini o anche ai veri, la questione dei veri partigiani. Insomma, ci sono tanti aspetti su cui un podcast a tema storico può arrivare e io credo che sia assolutamente importante provare a percorrere questa strada. Bene, eccoci arrivati alla conclusione di questa puntata di suggerimenti per leggere e ascoltare storia, come abbiamo detto all'inizio. Nel frattempo mi sono perso per strada Olga, ma anche a suo nome ringrazio ancora Achille Filipponi, il direttore creativo, che ha illustrato questa bella rivista uscita nel dicembre del 2017 con il suo primo numero, e Francesco Ciscopota, che ci ha raccontato il suo lavoro di storico in podcasting. Vi invitiamo ad andare sul nostro sito Radio Vallun con due O, dove potete trovare il podcast della puntata assieme dei link di approfondimento del lavoro di Achille e del lavoro di Francesco, che abbiamo avuto al telefono con noi. Oltre al sito vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, caso S-Vallun On Air, Vallun sempre con due O, per gli appuntamenti e altre segnalazioni che ci colpiscono durante la settimana. Naturalmente la pagina Facebook serve anche per come un portale, uno spazio in cui possiamo interagire con voi e magari fateci sapere quello che non vi è piaciuto della puntata e del sito. Magari se c'è anche qualcosa che vi è piaciuto, sempre fa sempre bene all'umore. Bene, buon proseguimento di giornata a tutti e tutte da Frey.